se da un punto indefinito ci sarà questa luce che irradierà, si spera. Tutte le menti forti della sfera sarebbe un colpo ritrovare voci più normali. Tu con la penna scrivi sempre in rosso, sorseggi piano piano il tuo caffè. Potresti raddrizzare questa nave, sì, con un colpo da manuale vireresti a prua. Apri le tue mani, rotola la vita, fai conto da adesso che tutto andrà a rovescio. Salgo 100 piani ed arrivo fino al K2 e vi vedo giù come le piccole formiche, e ancora più in alto, più su, col dito puntato laggiù, quasi infallibile. Tu che ti ritrovi fra le mani le 10.000 per mangiare un giorno, guardi dal buco di una serratura, è questo il mondo che tu vedi, la vita qui è più dura. A noi ci basta che domani sia con lei e un'ora di lavoro straordinario. Magari passi a fare la schedina e speri che stavolta sia per te la volta buona, e apri le tue mani. Fai conto da adesso che tutto andrà a rovescio. Salgo 100 piani ed arrivo fino al K2 e mi vedo giù come le piccole formiche, e ancora più in alto, più su, col dito puntato laggiù, quasi infallibile.